Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. 13 e 16 minuti primi in questo istante, gentili ascoltatori, una buona giornata da Giampaolo Musumeci. Il buongiorno vi viene anche da Riccardo Poli, che è con me in redazione a confezionare la puntata di quest'oggi, e da Mauro De Angeli, che gli darà il ritmo e la musica giusta. Le coordinate per interagire con noi sono 349-238-6666 per gli sms, se avete domande da porre a me o ai miei ospiti, e poi la mail nessunluogo@radio24.it e poi la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Oggi Israele sotto shock dopo gli attacchi a Eilat, ma noi andiamo subito a Gaza. The Gaza Strip has been rocked by a series of Israeli airstrikes following a number of attacks in Israel earlier in the day. Among the targets were senior members of a group affiliated to Gaza's Hamas government. Five members of the Popular Resistance Committees were killed, as well as a child. Other targets included a Hamas security base and a former intelligence headquarters, killing another child. Non si è fatta attendere la risposta israeliana contro la striscia di Gaza. Diversi raid ieri, ma anche nella notte, colpiti numerosi obiettivi. Ma ieri un'operazione condotta da un comando di terroristi aveva colpito Israele sulla strada per Eilat. The Israeli authorities say the first attack took place on bus number 392, carrying passengers between the southern Israeli town of Be'sheva and the coastal resort city of Eilat. Reports say two or three men climbed out of a car as the bus traveled on Route 12 next to the Egypt-Israel border and opened fire on it. We are now understanding this was a very sophisticated attack involving at least one anti-tank missile used against the bus and also some automatic weapons fire from some militants down along the Egyptian border. At this time, five dead. That number could certainly grow. Un attacco sofisticato, micidiale, come avete sentito. Siamo sulla strada per Eilat, quasi al confine con l'Egitto, siamo in Sinai. Cosa è accaduto ieri? Il primo attacco alle ore 12, un'auto ha affiancato un autobus di militari israeliani che andavano in congedo verso la località balneare, ha sparato contro il veicolo. Un quarto d'ora dopo esplodevano alcune mine al passaggio di altri veicoli militari che accorrevano in soccorso. Alle 13 un altro comando di terroristi lanciava addirittura dei razzi RPG contro veicoli israeliani e ne centrava uno. E infine ancora razzi e colpi di mortaio hanno fatto esplodere un veicolo civile in transito. Il bilancio: 8 cittadini israeliani morti, tra cui due donne, 26 feriti e morti anche i 7 assalitori. Ma una risposta il governo israeliano l'aveva promessa immediatamente. Sentite Netanyahu. If the terror organizations think they can hit our civilians without any response, they will find out that Israel will exact its price, a very heavy price. E infatti i raid israeliani hanno immediatamente ucciso 6 dirigenti del gruppo del Comitato di Resistenza Popolare, questa cellula islamica, vari depositi di armi, ma vi è stata anche una vittima civile, un adolescente di 13 anni, oltre almeno 17 feriti. Da Gaza è poi continuato un lancio, almeno 12 al momento, i razzi lanciati contro diverse città israeliane. I primi sono stati intercettati dal sistema antimissilistico israeliano, ma finora la conta è di 6 feriti. Questa è la situazione piuttosto cruciale che si vive tra Gaza e Israele in questo momento. Partirei da Anna Momigliano, giornalista della rivista Studio, a cui do il mio buongiorno. Anna, buongiorno. Buongiorno a voi. L'intelligence israeliana si aspettava, sì, un attacco, ma forse non se lo aspettava così sofisticato e così ben architettato. Ma sicuramente è stato l'attacco terroristico meglio architettato degli ultimi anni, sì, perché come abbiamo sentito si è trattato di almeno 4 attentati simultanei gestiti in modo diverso: un attacco contro i soldati, un attacco contro un autobus di linea che trasportava turisti ma anche soldati in congedo, e poi appunto dei missili anticarro di medio raggio, cioè quindi non parliamo di armi fatte in casa, lanciate dal Sinai, dal confine egiziano. E questo implica due cose: uno, un alto grado di coordinamento che erano anni che non si vedeva, e due, il fatto che per quanto pare sia stato appunto questo gruppo palestinese, Comitato di Resistenza Popolare, che questi terroristi sono in grado di colpire dal confine egiziano, che non è un confine coperto da barriere difensive, cioè semplicemente un piccolo filo spinato che porta il confine con un paese considerato amico, perché esiste un trattato di pace tra Egitto e Israele. E quindi, sebbene fossero diversi giorni che Israele diceva noi siamo preoccupati di quello che sta succedendo nel Sinai, ci sono cellule di terroristi, c'è un vuoto di potere in Egitto, e chiaramente questo tipo di attentato li ha colti di sorpresa. Sì. Andiamo subito a Gerusalemme, dove c'è Avi Pasnar, che è già ambasciatore israeliano in Italia, ora appunto è a Gerusalemme, a cui chiedo, buongiorno ambasciatore innanzitutto. Buongiorno. A cui chiedo innanzitutto come si è svegliata Israele questa mattina. Con un grande shock, perché per un lungo periodo non ci sono stati attentati così, e questo era molto crudele, che sono stati uccisi 8 israeliani e una trentina di feriti. E questo è soltanto per farci ricordare in quale regione viviamo, che uno pensa che tutto sta tranquillo e si sveglia una mattina con un orrore così, con morti, i feriti, l'odio intorno a noi, che ci colpisce sempre. Evidentemente è una situazione difficile a gerire, però purtroppo noi siamo abituati dal passato e sappiamo ciò che fare, e abbiamo preso immediatamente delle misure contro i capi di questo gruppo terroristico, e sono stati tutti eliminati poche ore dopo l'attentato, come una lezione a coloro che pensano poter continuare questi attacchi contro Israele. Ecco, ambasciatore, l'intelligence israeliana, la risposta immediata militare con i raid cui faceva riferimento lei, come dire, non lascia spazio a dubbi. Voi siete assolutamente sicuri che sia stato questo comitato di resistenza popolare ad aver architettato l'assalto terroristico, nonostante il fatto, ad esempio, che testimoni raccontano di divise uniformi dell'esercito egiziano portate dai terroristi, e nonostante il fatto che appunto l'attacco è arrivato dal Sinai? L'Egitto non c'entra per niente in questo. Purtroppo la situazione nel Sinai, dal punto di vista della sicurezza, non è buona da quando è stata la rivoluzione in Egitto, che l'Egitto si occupa di altre cose, che la presenza militare egiziana nel Sinai è piuttosto debole, e questo i diversi gruppi terroristi palestinesi ne approfittano di questo. E quel gruppo noi sappiamo con 100% di sicurezza che è responsabile di questo atto, anche non c'è stato un dimentito da parte di questo gruppo, e abbiamo potuto con una buona intelligence eliminare tutti i capi di questo gruppo, e spero che questo servirà dell'azione a altri gruppi, perché no, e questo è il gruppo unico, ci sono molti gruppi islamici che pensano poter forse fare lo stesso. Questo servirà come una lezione a tutti coloro che pensano poter attaccare Israele. Anna Momigliano, concordi sul fatto che, come dire, insomma, l'Egitto non c'entra nulla? È chiaro che però il Sinai c'è chiamiamolo un vuoto di potere. Oggi sul Corriere della Sera Guido Limpio racconta, mi sembra molto bene, questa tortuga, questo territorio che decisamente, insomma, le maglie del controllo sono molto larghe, dove si aggirano parecchi soggetti con finalità diverse. C'è questo gruppo estremista islamico che si rifà al Qaeda. a cui è arrivato il plauso di al-Zawahiri, ma non c'è un'affiliazione vera e propria. Ci sono movimenti sicuramente palestinesi che arrivano da Gaza, e poi c'è questa, diciamo, anonima sequestri, chiamiamola così, che fa del commercio, del traffico di uomini e del commercio vario, del contrabbando, poi la sua attività. C'è solamente un vuoto di potere che quindi permette in qualche modo queste operazioni, o c'è qualcosa di più secondo te? Ma allora, il Sinai è da sempre, cioè da sempre, insomma, è da almeno un decennio una zona estremamente calda e pericolosa. Diciamo che l'origine, per semplificare un po', dell'instabilità nel Sinai sta nel fatto che il Sinai è tradizionalmente abitato da tribù beduine che sono sempre state trattate, insomma, non troppo bene dalla maggioranza degli egiziani, che sono sempre state tagliate fuori dal benessere portato del turismo, e queste tribù beduine sono considerate, cioè, degli estremisti provenienti da queste tribù beduine, non vogliamo generalizzare, sono in passato stati ritenuti responsabili di diversi attentati, sia contro i turisti israeliani ma anche occidentali, nelle località appunto di mare, come Taba, Sharm el-Sheikh, sì. E gli attacchi contro i gasdotti che portano il gas a Israele, perché esiste un accordo tra Egitto e Israele per la fornitura del gas. Questi gruppi operavano anche quando c'era Mubarak. Insieme a loro, cioè trovando terreno fertile di questo malcontento popolare, si sono instaurati sia dei gruppi fondamentalisti islamici che si ispirano più o meno direttamente o indirettamente ad Al-Qaeda, e in secondo luogo anche dei gruppi palestinesi che non sono necessariamente legati ad Al-Qaeda, ma comunque estremisti, come questo Comitato di Resistenza Popolare, che appunto trovano, diciamo, una buona base lì. Questi problemi ci sono sempre stati, solo che finora, cioè fino alla rivoluzione dello scorso febbraio contro Mubarak, c'era una mano forte da parte dell'Egitto che li teneva relativamente a bada. Adesso, come ricordava l'ambasciatore, le forze armate egiziane hanno altro a cui pensare, perché in questo momento sono loro che stanno gestendo la transizione, certo, verso la democrazia, quindi o governano o tengono a bada dal Sinai, non godono dell'onnipresenza i militari egiziani. Detto questo, va ricordato appunto che nonostante gli attacchi venissero dall'Egitto, addirittura razzi mandati dal Sinai, non vuol dire che sia coinvolto l'Egitto come paese, tanto che nel loro piccolo anche i militari egiziani hanno annunciato di aver compiuto un raid contro questo comitato di resistenza popolare e sostengono di averne uccisi due di capi. Quindi, per quanto esistano tensioni, vuoti di potere eccetera, non è che gli egiziani non stanno facendo nulla, anche loro hanno, sì, portato avanti delle azioni di controterrorismo. Fra l'altro, ieri in questo scambio di fuoco incrociato, poi anche tre agenti della sicurezza egiziana sono rimasti uccisi. Ieri il fuoco, insomma, non si è risparmiato, la risposta su Gaza è stata piuttosto violenta, ripeto, c'è stato anche almeno un civile, un adolescente che è morto, ma adesso c'è l'informazione finanziaria, poi di nuovo a nessun luogo è lontano Israele sotto shock. Nessun luogo è lontano. E ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. Oggi a nessun luogo lontano l'attacco terroristico a Israele e la dura risposta su Gaza. Siamo con Anna Momigliano, giornalista della rivista Studio, e Avi Pasnar, già ambasciatore israeliano in Italia e che ora è a Gerusalemme, che ci sta dando in qualche modo anche un po' il polso del paese dopo questo duro e sanguinoso attacco. Ambasciatore, la risposta israeliana su Gaza è stata dura, e c'è stata anche una vittima, un adolescente. Come valutare un eccesso di forza? Come valutare una reazione come questa? Io credo che la risposta israeliana è stata giusta, adeguata. Credo che non c'è un'altra risposta alla morte di 8 innocenti che di provare di colpire quelli che sono dietro responsabili di questo attentato, di questo attacco. E noi abbiamo potuto, con una ottima intelligence, colpire i capi di questa organizzazione islamica di Comitato di Resistenza Islamica, e questo credo è una una fonte di orgoglio da parte del nostro militare di poter colpire così precisamente questo capo dell'organizzazione. Lamentiamo ovviamente che anche c'è stato lì una vittima civile, quelle cose succedano purtroppo in operazione militare, no, noi lo lamentiamo, però questo non diminua in niente la necessità di colpire la testa del mostro terroristico, è ciò che abbiamo fatto e quelli che sono responsabili per la morte di 8 civili innocenti e di 30 feriti non sono più con noi oggi. Credo che il mondo sta meglio senza questi terroristi. Punto di vista chiaro. Anna Momigliano, perché proprio ora, perché proprio lì a Eilat un attacco così ben orchestrato? Appunto, come dicevamo prima, è da sempre che il Sina è più o meno, diciamo, terreno fertile per i terroristi. Adesso si è verificata la possibilità. C'è un vuoto di potere maggiore con l'esercito egiziano impegnato, insomma, in altre faccende affaccendato, e è chiaro che è un'operazione terroristica che ha richiesto una pianificazione non indifferente, perché appunto si parla di armamenti pesanti, si parla di attentati coordinati in zone diverse, e in soldoni credo che l'analisi più logica sia appunto che c'è stato questo vuoto di potere e i terroristi ci hanno messo un po' ad organizzarsi per portare avanti una cosa così ben organizzata, e quindi l'hanno fatto adesso. Volevo solo dire, dato significativo il fatto che abbiano colpito Eilat, è un autobus di linea diretto ad Eilat, che è una località turistica, perché ha un impatto psicologico molto forte nella psicologia israeliana. Eilat è un luogo di turismo, praticamente una città che vive quasi solo di turismo marittimo, un po' come se da noi piazzassero una bomba a Rimini o a Maratea. Sì. E è una zona finora relativamente poco colpita dal terrorismo, c'era stato solo un grande attentato qualche anno fa, e anziché le zone più vicino a Gaza, Sderot, Ashdod, Beersheba, che sono, diciamo, abituate a essere sotto tiro continuo dei razzi, e Eilat era considerata una zona relativamente sicura, associata, diciamo, nell'immagine collettiva a comunque un luogo spensierato di vacanza, e insomma colpire Eilat e colpirla in questo modo ha un fortissimo impatto psicologico. Ecco. Quindi credo che l'obiettivo principale di questo attentato terroristico sia spaventare, non sia un messaggio al governo, quanto piuttosto proprio spaventare la popolazione civile israeliana. Ecco, quindi possiamo tentare di escludere motivazioni strettamente politiche, anche dal punto di vista cronologico. Dici tu, avviene adesso questo attentato perché adesso si sono verificate delle condizioni logistiche buone per portare a termine questo attentato. Ambasciatore, è d'accordo nel senso, il fatto che ad esempio a settembre ci potrebbe essere il riconoscimento della Palestina da parte dell'ONU, non è secondo lei una motivazione che soggiace a questo attacco, o anche lei è dell'opinione che sia semplicemente il momento buono? Sì, questo non c'entra niente. Il dibattito nell'ONU, quei gruppi islamici estremisti non sono interessati né l'ONU non nelle risoluzioni dell'ONU, non in stabilire due stati, loro semplicemente sono contro gli israeliani, contro gli ebrei, e hanno trovato il momento giusto e la situazione giusta che c'è una debolezza della sicurezza egiziana nel Sinai, che era il momento giusto per colpire vicino ad Eilat, perché è più facile, perché noi abbiamo delle barriere di sicurezza intorno a Gaza, è impossibile per loro uscire da Gaza adesso, allora loro devono entrare nel Sinai, che è una zona quasi demilitarizzata e avvicinarsi delle popolazioni israeliane, come non ci sono altri nel Negev, loro vanno al sud e colpiscono vicino ad Eilat. Però adesso noi stiamo costruendo una barriera di sicurezza a lungo della frontiera, del confine con l'Egitto. Sì. E speriamo che fra alcuni mesi avremo un ostacolo che loro non potranno superare, come non possono superare l'ostacolo intorno a Gaza. Ambasciatore, l'ultima domanda, poi la lascio al suo lavoro. Secondo lei Israele andrà avanti con i raid sulla striscia di Gaza? E in questo caso, nel caso di eventuali altre vittime civili, come si comporterà? No, io non dico ciò che Israele farà. Noi abbiamo risposto in una maniera molto forte e molto precisa, e noi cerchiamo di colpire soltanto i terroristi, evidentemente non la popolazione civile. Noi faremo tutto per arrivare alla situazione che avevamo prima, di calma e di sicurezza. Noi non siamo interessati a nessuna escalation e faremo del tutto e prenderemo tutti i mezzi per restaurare il calma. Grazie allora all'ambasciatore, già ambasciatore israeliano in Italia, Avi Pasnar, ora a Gerusalemme. Una buona giornata, un buon lavoro. Grazie, grazie. L'attacco terroristico a Israele e la dura risposta israeliana su Gaza, che anche, insomma, di cui hanno fatto le spese anche vittime innocenti. L'ambasciatore ha detto: Israele non cerca un'escalation, staremo a vedere nei prossimi giorni, perché, ripeto, a tutt'oggi sono già 12 razzi che sono partiti da Gaza, sono 6 feriti israeliani. Insomma, a vederla da qua sembra che la situazione sia ancora piuttosto calda. Naturalmente monitoreremo la situazione nei prossimi minuti, nelle prossime ore, ve ne daremo conto. Ma volevo tornare ad Anna Momigliano per capire anche come dire, un aspetto quasi a metà via tra lo psicologico e il politico. Questa immediata reazione israeliana è su Gaza, frutto sicuramente, per carità, del loro lavoro di intelligence, ma come dire, non suona come un siamo stati colpiti, dobbiamo reagire immediatamente, con molta forza, a rischio anche di fare errori, perché bisogna reagire immediatamente. Sì, credo che l'analisi sia condivisibile appieno. Israele ha reagito in questo modo perché, secondo diciamo la prospettiva, il punto di vista israeliano, non c'era alternativa. Per due punti di vista. Prima di tutto un fattore di sicurezza politica estera, cioè che se si manda il messaggio a questi gruppi palestinesi che possono colpire e farla franca, e si pensa appunto che questi gruppi continueranno a colpire. In secondo luogo, anche perché c'è, diciamo, una richiesta, cioè c'è un fattore psicologico interno, cioè c'è una richiesta da parte della popolazione civile israeliana che si sente colpita, c'è una richiesta di agire. È chiaro che, insomma, è una situazione in cui si rischia di perdere qualsiasi cosa si faccia, perché se non si reagisce effettivamente il rischio è che passi veramente il messaggio che i terroristi possano fare quello che vogliono. D'altro canto, se si reagisce c'è il rischio di un'escalation, perché poi cosa è successo? Israele ha subito questi attentati terroristici, ha risposto bombardando Gaza, da Gaza sono partiti altri razzi che hanno colpito altri civili israeliani. Probabilmente non ha la palla di vetro, però se non succede qualcosa che ferma questa escalation, Israele risponderà, i palestinesi risponderanno, e chi ne fa le spese, insomma, saranno soprattutto i civili israeliani. nel caso specifico anche palestinesi, più c'è escalation più c'è il rischio che ci vadano di mezzo anche i civili. Stiamo parlando di civili palestinesi perché i gruppi palestinesi mirano sostanzialmente i civili israeliani. Finora c'è stata questa tragedia di questo ragazzino ucciso nel raid che ha colpito il comitato di resistenza popolare, che però era il figlio di uno dei leader, quindi cosa significava? Che non hanno sbagliato target, che hanno colpito il quartiere generale del comitato di resistenza popolare e uno dei leader era lì con suo figlio, quindi c'è una vittima collaterale gravissima. Potremmo anche dire cavoli, ma se sapevate che c'era un ragazzino, ammesso che lo sapessero, perché avete colpito lo stesso? Però non è che è stato colpito una scuola, un edificio civile, per cui finora diciamo che Israele ha agito più o meno in quello che normalmente è considerata una risposta accettabile. Il punto è cosa succederà se veramente ci fosse una vera escalation. A questo punto l'errore umano gioca un ruolo, se più bombardamenti ci sono più è facile sbagliare, cioè veramente ci potrebbe essere veramente il rischio che anziché colpire il quartier generale dei terroristi si colpiscano obiettivi puramente civili. Nessun luogo è lontano. E allora, di fronte alla possibilità di un'escalation del conflitto militare tra Gaza e Israele, facciamo una piccola parentesi. Perché abbiamo parlato di questo buco nero del Sinai, insomma, da cui è provenuto l'attacco terroristico, questo buco nero in cui agiscono formazioni non meglio precisate. Non so, forse gli ascoltatori più attenti, i lettori più attenti che seguono anche le notizie non delle prime pagine, ricorderanno fino a qualche mese fa si parlava della vicenda dei 70 eritrei, dei migranti eritrei bloccati nel deserto del Sinai, bloccati dai trafficanti di uomini. Allora abbiamo sentito Don Musie Zerai, che è fondatore dell'agenzia Beisha, che monitora proprio la situazione degli eritrei nel Sinai. È una stima che noi abbiamo adesso, perché già a gennaio si parlava di 150 persone, perché noi a fine novembre abbiamo avuto la notizia inizialmente di questi intorno a 70 persone, poi dopo con le telefonate siamo arrivati a scoprire che erano 150, poi piano piano si è allargato il gruppo e adesso la stima che abbiamo è intorno a 150 persone, quelli che noi siamo riusciti a entrare in contatto, poi ci sono altri che ancora noi non siamo in grado di contattarli perché non abbiamo avuto possibilità, per cui c'è chi mi dice anche che possono essere fino a 400 persone, però questo parliamo solo di profughi eritrei e etiopi. Poi di altre nazionalità che noi conosciamo ci possono essere, tanti hanno rischiato la vita, non sono morti sotto le torture di questi trafficanti perché non riuscivano a ottenere i soldi che volevano, donne che venivano violentate, stuprate e continuamente costrette ad abortire. E in questa situazione, in questa condizione si muove questa anonima dei trafficanti, questo business multimiliardario che gestisce questa rotta dell'immigrazione che è poco raccontata ma è ultimamente sempre più utilizzata, perché le rotte nel Mediterraneo sono sempre più difficili, più rischiose, Lampedusa è chiusa, ormai lo sapete, e quindi si tenta di passare per terra, per la via di terra, una via molto più lunga, molto più pericolosa. Poi Israele ha, diciamo, una politica piuttosto ferrea sull'immigrazione, per cui non è facilissimo, e così si rimane inveschiati in quella zona incredibile desertica dove c'è un vero e proprio vuoto di potere che è piuttosto rischioso. Una situazione molto complicata per il fatto che l'arrivo degli eritrei, che provengono soprattutto dal Sudan, spesso arrivano con inganno fatto da questi trafficanti e i loro collaboratori che gli promettono il facile passaggio dal Sinai verso il territorio di Israele, e una volta arrivati nel territorio del Sinai invece vengono sequestrati e tenuti in prigionia, ricattati e costretti anzi a chiamare i familiari per ottenere poi il riscatto per la loro liberazione. E queste situazioni sono ormai che vanno avanti da anni, quindi che lì il Sinai è diventato una specie di zona franca per questi gruppi sia armati che tutti questi trafficanti che agiscono liberamente in quella fascia di territorio che è diventato fuori controllo dal governo egiziano, dal 2003-2004 i primi segnali, però lì erano casi isolati, invece adesso è diventato addirittura di massa. Non si può neanche definire se sono beduini, ci sono i movimenti di gruppi armati e delinquenza comune, non c'è di tutto perché sono diversi gruppi. E questo per dire, insomma, l'altra faccia dell'attentato, della risposta, delle controrisposte che vi stiamo raccontando. Un vuoto di potere, una terra di nessuno, consente anche un molto remunerativo traffico di uomini. Anna Momigliano, prima di lasciarti, telegrafica, l'escalation militare andrà avanti, sì o no? Beh, io non ho la palla di cristallo, però diciamo che l'escalation militare, stando ai fatti come sono oggi, sembra destinata ad andare avanti se non interviene qualcosa, cioè un buon senso da entrambe le parti, oppure un elemento mediatore, potrebbero intervenire gli Stati Uniti a cercare insomma di calmare la situazione. E così com'è il rischio appunto che si metta in atto la logica occhio per occhio, dente per dente, che alla fine, come diceva Gandhi, lascia ciechi tutti quanti. Grazie allora Anna Momigliano, una buona giornata e un buon lavoro. Buona giornata a voi. E giro immediatamente la stessa domanda, cioè se dobbiamo aspettarci un'escalation di violenza e di risposte, contro risposte militari, a Ugo Tramballi, corrispondente del Sole 24 Ore da Gerusalemme. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Non sono corrispondente da Gerusalemme, frequento spesso Gerusalemme, ma non sono corrispondente da Gerusalemme. Sono due storie completamente diverse, quello che avete raccontato e quello che è accaduto ieri. I beduini sono interessati a fare queste cose appunto molto sporche, tratta di persone, praticamente di schiavi, tratta di armi, di droga, sì, di qualsiasi materiale che sia illegale, non certo di fare la guerra a Israele. Chi ha fatto queste cose, chi ha fatto quello che è accaduto ieri, sono altri che sfruttano naturalmente questo vuoto di potere nella penisola del Sinai, ma non solo i beduini. No, no, certo, infatti quello che noi stavamo spiegando era un po', certo, l'altra faccia di questo vuoto di potere cui facevi riferimento te, che ha consentito l'attacco terroristico, molto presumibilmente, almeno l'intelligence israeliana ne è sicura, veniva da Gaza, ma come dire, sfruttava questa no man's land dove si aggirano anche questi beduini che fanno del traffico di uomini il loro business principale. Ugo, sei pessimista o ottimista su quella che sembra l'inizio di una nuova escalation di violenza tra Gaza e tra i palestinesi e gli israeliani? E dopo la grande illusione del processo di pace dei 20-10 anni fa, no, ho imparato a non essere più né ottimista né pessimista riguardo al conflitto fra israeliani e palestinesi. Ci sono alcuni interessi e ci sono alcuni rischi. Cioè, l'interesse, per esempio, sia da parte degli israeliani che da parte di Hamas, in realtà è quello di non aumentare l'escalation, perché Israele ha tutto l'interesse a non. Adesso esiste la primavera araba, ci sono altre problematiche, c'è qualcuno che vuole spingere di nuovo Israele al centro del conflitto, del problema, delle problematiche mediorientali, e Israele non ha interesse perché questo avvenga. Naturalmente c'è sempre nel conflitto israelo-palestinese, c'è e ci sarà sempre, c'è sempre stato, ma prima ancora dalla fondazione stessa di Israele, una specie di reazione immediata. Quando gli israeliani, o prima ancora gli ebrei della comunità pre-statale, venivano attaccati da terroristi o da gruppi armati, gli israeliani hanno sempre reagito, hanno reagito anche ieri, nonostante fosse dal punto di vista politico contro il loro interesse, sì, perché c'è un elemento di faida connaturato dagli uni negli uni e negli altri in questa lotta oramai secolare fra israeliani e palestinesi. Ecco, questo potrebbe portare, nonostante gli interessi politici siano contrari, potrebbe portare comunque a un'escalation. Sì. E serve, come si è letto, come stanno facendo, il muro dotato di telecamere, ci ha fatto riferimento l'ambasciatore che era in linea con noi prima, lo ha detto Van Creveld, che è studioso e insegna storia militare a Gerusalemme, e in una intervista riportata alla Stampa oggi, cioè quel confine lì sotto così poroso, quella frontiera così debole va rafforzata, cioè continua la logica del, come dire, alziamo i muri? Sfortunatamente in questa epoca, in particolare lì, in quella regione, ma un po' dappertutto, anche in Europa, tendiamo tutti quanti ad alzare i muri, muri che poi in realtà non risolvono il problema, sono solamente dei palliativi, servono a mantenere dall'altra parte del muro sempre più attivo e sempre più minacciosa il minaccioso del problema. Poi sicuramente un maggiore controllo è necessario, perché per Israele non si tratta semplicemente di un'immigrazione come succede da noi in Europa, ma spesso si tratta anche di terrorismo. Detto questo, però, come sempre il problema è politico e va risolto con la politica, non con i muri. Ugo, un'ultima domanda prima di lasciarti al tuo lavoro. Un altro fronte caldo molto vicino è quello siriano. La comunità internazionale si è mossa per adesso a parole e con sanzioni economiche. ONU, Unione Europea e Stati Uniti chiedono a Assad di fare un passo indietro, Mosca è ovviamente contraria. Lì come vedi la situazione? Beh, intanto non sono due storie molto completamente diverse, perché io credo che dietro a quegli episodi di ieri nel Sinai ci sia appunto anche potrebbe anche esserci la mano dei servizi segreti siriani, del tutto interessati a trascinare Israele nel solito vecchio conflitto per far dimenticare i problemi che il regime ha a Damasco. Però certo, ancora il voto delle Nazioni Unite di ieri sera, di questa notte, dimostra appunto che c'è comunque una spaccatura in Occidente. Noi occidentali scontiamo con la Siria l'incapacità di aver risolto rapidamente la questione libica, sia dal punto di vista politico, diplomatico e poi militare, quindi ora siamo poco credibili a risolvere la questione siriana. Naturalmente Russia e Cina sono contro, ma non sono contro per ragioni geopolitiche locali, cioè la Siria non è un paese economicamente importante, esportatore di petrolio e altro, perché Russia e Cina pensino a proteggere il regime. Lo fanno semplicemente perché gli Stati Uniti sono una superpotenza sempre più malata dal punto di vista economico, ci si chiede fino a che punto un paese possa continuare ad essere superpotenza al tempo stesso debitore nel mondo, e quindi Russia e Cina, per il discorso geopolitico non tanto medio orientale quanto globale, sono in concorrenza con gli Stati Uniti indeboliti e usano anche la Siria come potrebbero usare Myanmar, per comunque contrastare il potere americano. Grazie allora Ugo Tramballi per la tua puntuale e precisa analisi, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche a voi. E noi cambiamo decisamente pagina perché andiamo di nuovo in Irlanda del Nord. Ricordate la storia di Brendan Lillis? Ve l'abbiamo raccontata a più riprese, un prigioniero politico irlandese imprigionato per possesso di esplosivo, poi rilasciato sulla parola in seguito a una larga amnistia che fu riservata non solo a ex membri dell'IRA ma anche membri dei gruppi paramilitaristi. Fu di nuovo imprigionato 2 anni fa per una tentata rapina. Non poté mai essere giudicato perché le sue condizioni di salute non glielo permettevano. Pesa 37 kg e alto quasi 2 metri. È stato in carcere a Magaberry per lungo tempo senza poter ricevere le cure necessarie. Ieri abbiamo risentito la moglie, Roisin, che ha descritto così le sue condizioni. When he first went into hospital, no, he wasn't conscious, he wasn't fully aware. Quando è entrato in ospedale non era cosciente e non era pienamente consapevole della gente che gli stava intorno, ma il medico ha detto che la disidratazione ti rende confuso e molto assonnato e cose del genere. Ora sembra cosciente, ma lontano. I suoi livelli di concentrazione sono molto molto bassi. Dimentica quello che gli stai dicendo velocemente, devi ripetere sempre le stesse cose. Lo amo, così ho la pazienza di fare tutte queste cose con lui. Ma io lo volevo in ospedale, è lì che hai bisogno di essere per accedere alle cure adeguate che non hai ricevuto in carcere. Così Roisin ieri sera ci raccontava delle condizioni di Brendan al Belfast City Hospital. La notizia di ieri notte è che Brendan è libero. Nel senso che la commissione giudiziaria che delibera sulla condizione del prigioniero per la sua eventuale presenza in tribunale ha dichiarato che appunto Brendan è libero, non deve essere più giudicato. Le due guardie che lo piantonavano all'ingresso della stanza sono scomparse, non c'è più la telecamera che lo riprendeva e che lo sorvegliava 24 ore su 24 e quindi è libero di continuare a ricevere le cure di cui aveva bisogno, che per 2 lunghi anni a Magaberry gli erano state negate. da Brendan e dalla moglie e dal comitato, che non solo a Belfast ma in varie città italiane si era mosso per premere sul governo nordirlandese, quindi in qualche modo una vittoria. Resta però un capitolo aperto, che è quella della condizione degli altri prigionieri politici a Magaberry, ma di questo torneremo nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. E quindi non mi resta che ringraziare voi, gentili ascoltatori, per essere stati con noi anche quest'oggi. Un ringraziamento da parte anche di Riccardo Poli, che ha confezionato con me la puntata di oggi, e Mauro De Angeli, che le ha dato la musica e il ritmo giusto. Un saluto da Giampaolo Musumeci, noi ci risentiamo lunedì, ma ricordate che nessun luogo è lontano.